Mercato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ma in questo caso dell'utero in affitto, qui il bambino diventa una merce, perché tu vai a firmare un contratto in cui dici ad una donna che per 9 mesi deve tenere un bambino in pancia e dopo 9 mesi deve darlo ad una coppia per contratto. È una cosa abominevole. Luigi Di Maio, questo del Movimento 5 Stelle, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, che riaccende nuovamente, anche se questo ci fosse bisogno, insomma, questo dibattito così caldo da parecchio tempo a questa parte, e poi, diciamo, riacceso, rinfocolato ieri dalla notizia che Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, ha avuto attraverso la maternità surrogata un figlio in California insieme al suo compagno Ed. Oggi Di Maio quindi ha detto che per decidere sulle adozioni, attenzione a mettere insieme le due cose, intanto l'utero in affitto è una cosa e riguarda anche le coppie eterosessuali, e poi dice sulle adozioni, sulla stepchild adoption, cioè la possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il figlio biologico del partner, è necessario, dice Di Maio, un referendum popolare, perché le persone, la gente su questi temi etici deve intervenire. Ecco, su questo argomento ci soffermeremo parecchio, ci sarà tra l'altro ospite Melita Cavallo, che è stata giudice per tanti anni di tribunale minorili, in particolare di Roma, adesso è in pensione da 2 mesi, ed è la giudice che ha aperto alle adozioni all'interno delle coppie dello stesso sesso, direi essenzialmente di donne. Ci sarà stasera per dire questo vuoto legislativo, è giusto che la politica deleghi ai tribunali, esiste già in realtà una legge che regolamenta in parte questo tipo di adozioni. Vi chiedo però di intervenire, come sempre, lo sapete, i vostri due canali sono pagina Facebook di Effetto Notte, oppure gli sms al 349-238-6666, i canali per interagire qui con Effetto Notte. Vi chiedevo, Luigi Di Maio appunto dice sull'adozione è necessario un referendum, e poi ha detto che Renzi, nel votare le unioni civili al Senato, ha preferito Verdini al Movimento 5 Stelle. Quindi la posizione di Di Maio e del Movimento 5 Stelle, come la commentate? Effettivamente ci vorrebbe un referendum, e perché Di Maio dice Renzi ha preferito Verdini al Movimento 5 Stelle? Perché questo deve essere, secondo, diciamo, i maligni, quello della scelta del referendum, uno sgambetto al PD. Sapete che si accusa il Movimento 5 Stelle di aver in qualche modo intralciato questo percorso delle unioni civili. Il Movimento 5 Stelle dice no, era una questione di democrazia, perché per quello che non votammo il super canguro, anche Grasso dice che non era ammissibile. Insomma, come commentate questa posizione così netta adesso del Movimento 5 Stelle sulle adozioni? È necessario secondo voi un referendum? 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, e poi molti altri saranno i temi. Parleremo anche del Super Tuesday, il super martedì delle elezioni primarie, l'evento più importante delle primarie negli Stati Uniti. Ma intanto riassunto della giornata. Adozioni per le coppie gay, primo sì di un tribunale per l'adozione di 2 figlie di una coppia di donne. E il Movimento 5 Stelle con Di Maio chiede un referendum sulla stepchild adoption. Immigrazione, piano dell'Unione Europea da 700 milioni per aiutare la Grecia, dove è arrivato il 90% dei migranti nei primi 2 mesi del 2016. Il flusso verso l'Europa in questo inizio d'anno è aumentato di 30 volte. I dati Istat, PIL e lavoro in crescita in Italia, cala la pressione fiscale. L'omicidio di Regeni, la procura egiziana conferma torturato più volte in 7 giorni, ma il governo egiziano smentisce. Gentiloni sottolinea: ci aspettiamo dall'Egitto quella piena collaborazione che ci è stata promessa. Le primarie negli Stati Uniti, oggi il super martedì, è l'ora della verità. Trump verso il trionfo, ma Hillary e Sanders potrebbero batterlo. Lotta all'ISIS, il capo della NATO avverte: nel flusso quotidiano di rifugiati verso l'Europa ci sono terroristi, criminali e foreign fighters. Il caso Marò, l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi, ascoltato oggi dal Copasir, ha detto: ci sono prove che non hanno sparato loro, ma il governo tace. Facebook ha arrestato il numero 2 in Sud America, non ha rivelato dati WhatsApp alla polizia. La Popolare di Vicenza nel mirino della procura, e per il calcio, semifinale di Coppa Italia, Milan-Alessandria. Partiamo quindi da questo tema, vi dicevo sempre molto caldo, della stepchild adoption, delle adozioni per le persone dello stesso sesso. Oggi per la prima volta in Italia, tra l'altro, il Tribunale dei minorenni di Roma ha riconosciuto l'adozione, diciamo così, incrociata a una coppia di donne. avranno lo stesso doppio cognome, ma non saranno sorelle, non per la legge, anche se ora, per la prima volta, una sentenza riconosce ad una coppia di donne l'adozione incrociata delle figlie. La stepchild adoption non c'è, così come si prevedeva, tocca ai giudici volta per volta decidere e ancora una volta è il Tribunale per i minorenni di Roma ad aprire un altro varco per le coppie omosessuali. Ha riconosciuto infatti in sostanza il diritto di due donne diventate mamme dopo un'inseminazione fatta in Danimarca ad adottare la figlia dell'altra, perché questo rientrerebbe nei cosiddetti casi particolari, scrivono i giudici. Così ora le due bimbe di 4 e 8 anni, secondo quanto rendono noto le associazioni Famiglie Arcobaleno e Rete Lanford, avranno lo stesso doppio cognome, quello della mamma biologica e dell'altra che l'ha adottata. Ugualmente però non potranno dirsi sorelle, non per la legge, perché per i figli di coppie gay non esiste. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dal punto di vista della politica, queste le posizioni dei partiti. Il PD prende tempo sulla riforma delle adozioni, mentre il Movimento 5 Stelle attacca sull'utero in affitto. La Commissione Giustizia della Camera svolgerà un'indagine conoscitiva della legge attuale, poi si metterà mano al rinnovamento di adozioni e affidi, magari introducendo la stepchild adoption, ovvero l'adozione del figlio del partner nelle coppie omosessuali, che riguarda in Italia circa 500 bambini. Così il capogruppo PD Ettore Rosato. Dobbiamo pensare anche al tema delle adozioni, un tema vero che riguarda migliaia di bambini che sono negli istituti. Lo faremo prendendo il tempo necessario e coinvolgendo tutto il Parlamento. Ma Angelino Alfano non ci sta, il leader del nuovo centrodestra dice no ad ogni forma di adozione da parte di coppie omosessuali e promette un disegno di legge sull'utero in affitto dopo la paternità del compagno di Niki Vendola. Su questo interviene anche il Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio a Repubblica TV. Non possiamo immaginare che siccome le tecnologie e la scienza lo permetta, oggi apriamo i supermarket dei bambini e mettiamo il codice a barre su un bambino. Il bambino non può diventare una merce. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E su questo tema, vi dicevo, torniamo dopo, sia per un'analisi politica delle varie posizioni, di chi si riposiziona, eccetera, poi anche per capire se effettivamente esiste già una legge. Vi dicevo, sarà ospite qui effetto notte la giudice Melita Cavallo. Adesso passiamo a tutt'altro argomento, i dati pubblicati dall'Istat su occupazione e prodotto interno lordo. Dopo 3 anni di segno meno, l'economia italiana torna a crescere. Nel 2015 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,8%, fa sapere l'Istat, che ha rivisto al rialzo di un decimale le sue stime precedenti. Il rapporto deficit-PIL si attesta invece al 2,6%, il valore più basso dal 2007. Sempre nel 2015 poi sono cresciuti anche gli investimenti, mentre la pressione fiscale è calata al 43,3%. Segnali di ripresa arrivano anche dal mercato del lavoro. Sempre secondo l'Istat, a gennaio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile all'11,5%, ma nonostante la riduzione degli sgravi contributivi, il numero degli occupati è cresciuto, 70.000 unità in più rispetto a dicembre e 299.000 su gennaio 2015. Le cose vanno meno bene però sul fronte della disoccupazione giovanile, il cui tasso a gennaio è risalito al 39,3%, su base annua si registra comunque una diminuzione dell'1,6%. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E passiamo al bilancio dell'attività dell'Agenzia delle Entrate. Un anno all'insegna dei record, il 2015 per l'Agenzia delle Entrate, numeri positivi sul fronte della riscossione, su quello dei rimborsi e nella lotta all'evasione fiscale. L'attività storica dell'Agenzia fa registrare saldi molto positivi nelle tre macro aree, nord, centro e sud, con 8 miliardi riscossi ed un incremento dell'11,2% rispetto al 2014. Bene quindi la lotta all'evasione fiscale, 14,9 miliardi sottratti al sommerso, frutto anche di una maggiore collaborazione con i contribuenti, a spiegare il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Coloro che non hanno risposto all'approccio collaborativo conosceranno, permettetemi una battuta, il lato oscuro dell'accertamento e quindi avranno il controllo da parte nostra per essere indotti questa volta con altri metodi alla compliance. Sotto la lente di ingrandimento allora lo strumento dello spesometro. Dati positivi quindi per i rimborsi, saliti a quasi 4 milioni per un totale di 16 miliardi, segno meno per i ricorsi, diminuiti a favore della mediazione. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è sempre il tema naturalmente dell'immigrazione. Domani la Commissione europea proporrà di stanziare fondi per operazioni di soccorso umanitario umanitario nell'Unione. Un piano di aiuti da 700 milioni di euro in 3 anni per affrontare i crescenti bisogni umanitari, dice la Commissione europea, in Europa di fronte alla crisi di profughi e migranti. Intanto si apprende che in Grecia, dove è arrivato il 90% dei migranti nei primi 2 mesi del 2016, sappiamo che la Grecia è particolarmente in difficoltà e che il flusso verso l'Europa in questo inizio d'anno è aumentato di 30 volte dei migranti, e il 90% di questi è arrivato proprio in Grecia. E questo sarà il tema questa sera dello spazio europeo qui Effetto Notte. Poi c'è l'omicidio di Giulio Regeni con le novità, chiamiamolo così, delle indagini. Verità contrapposte, quelle che si sovrappongono alle indagini sulla morte di Giulio Regeni. Il Cairo soprattutto accredita le ipotesi più oscure e nega invece quelle che sembrano più plausibili, come la presunta deposizione del direttore del Dipartimento di Medicina Forense della capitale egiziana, secondo cui Regeni sarebbe stato torturato per 5 o 7 giorni a intervalli regolari secondo tecniche proprie dei servizi speciali egiziani. E il telefonino del ricercatore italiano avrebbe squillato a vuoto anche il 26 gennaio, il giorno successivo alla sua scomparsa. Sullo sfondo dell'inchiesta entrano in campo anche le grandi multinazionali. L'ENI, che in Egitto ha investimenti per 7 miliardi di euro, sollecitata da Amnesty International e dalla famiglia Regeni, ha garantito il proprio supporto. Mentre le proteste di Amnesty e della famiglia di Giulio hanno spinto la Wind a ritirare lo spot TV in cui i propri testimonial decantavano le offerte della compagnia telefonica sotto la minaccia della tortura. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero con gli Stati Uniti. Oggi è il Super Martedì, vi dicevo, l'evento più importante delle primarie in vista delle presidenziali che ci saranno l'8 novembre. L'ora si dice della verità con Trump, il candidato dei repubblicani, che potrebbe trionfare, ma secondo i sondaggi Hillary Clinton e Sanders, i due democratici, possono batterlo. Ci collegheremo più tardi con gli Stati Uniti. Intanto questa notizia che riguarda la lotta all'ISIS: il capo della NATO in Europa, il generale Philip Breedlove, avverte nel flusso quotidiano di rifugiati verso l'Europa ci sono terroristi criminali e foreign fighters. Sapete, questa cosa ha alimentato per tanto tempo polemiche. A suo avviso l'ISIS si sta diffondendo come un cancro in questo mix, sfruttando, dice il capo della NATO in Europa, il vantaggio di vie di minor resistenza, minacciando l'Europa e noi stessi. La Siria, la ripresa dei colloqui di pace dell'ONU sulla Siria riprenderanno il 9 marzo, l'ha detto l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura. E poi questa notizia della Polizia Federale brasiliana che ha arrestato a San Paolo il vicepresidente di Facebook per l'America Latina, Diego Zodan. Il motivo è stata la mancanza di collaborazione di Facebook in indagini aventi a oggetto messaggi su WhatsApp. Siamo amareggiati, si tratta di una decisione estrema e non proporzionata, ha dichiarato un portavoce di Facebook. Un po' la stessa cosa che sta succedendo tra Apple e l'FBI negli Stati Uniti per decriptare, vi ricordate, il cellulare dei terroristi di San Bernardino. Il caso Marocci: sono prove che non sono stati i fucili dei militari italiani a colpire i pescatori indiani e che la nave sulla quale si trovavano era in acque internazionali, ma il governo tace su questo. Chi l'ha detto? L'ha detto l'ex ministro degli esteri Giulio Terzi, ascoltato oggi al Copasir sulla vicenda dei due Marò. Terzi è stato convocato dal comitato per i servizi segreti a seguito di una sua intervista in cui parlava di pressioni esercitate per far tornare in India i due Marò quando 3 anni fa erano rientrati in Italia per la licenza natalizia. Poi il governo Monti fece in modo che tornassero poi a Delhi. Siamo adesso in Italia con le notizie della cronaca. Ennesimo femminicidio, tanto per non guastare la media mensile e settimanale anche. Omicidio-suicidio a Casal Palocco nel quadrante sud di Roma. Un uomo di 64 anni ha ucciso la moglie di 58 in casa e poi si è impiccato in giardino. La storia del bimbo ucciso a Genova. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha condannato oggi Giovanni Antonio Rasero a 26 anni di carcere per l'omicidio del piccolo Alessandro Matas, il bimbo di soli 8 mesi morto in un appartamento di Genova Nervi nella notte tra il 15 e il 16 marzo del 2010. E adesso l'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza, che potrebbe allargarsi a falso in bilancio e associazione a delinquere, oltre all'aggiotaggio e ostacolo alla vigilanza. Un'organizzazione gerarchica e ben strutturata con cui le persone mettevano a segno un numero indefinito di reati, e questo che accadeva nella Banca Popolare di Vicenza, secondo la Procura vicentina, che indaga anche per associazione a delinquere e falso in bilancio. Per ora comunque i reati ipotizzati restano aggiottaggio e ostacolo alla vigilanza, per cui è indagato tra gli altri l'ex presidente Zonin. A Vicenza ci sono 500 casi di azionisti che lamentano di essere stati truffati, ai quali si aggiungono gli esposti in mano a Prato e Udine, ci racconta Barbara Puschiasis di Federconsumatori Friuli Venezia Giulia. Quella di Prato e quella di Udine si stanno focalizzando sulle singole posizioni, su imprenditori che erano stati indotti ad acquistare le azioni per poter avere credito e su consumatori ai quali erano stati fatti accendere fidi per acquistare con pari importo azioni, guarda caso proprio durante gli aumenti di capitale. Proprio questo sabato i soci, 119.000 in tutto, dovranno votare su trasformazione in SPA, aumento di capitale e quotazione in borsa. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è la classifica della rivista americana Forbes, come sempre sui paperoni mondiali. Bill Gates resta la persona più ricca del mondo, secondo la classifica annuale appunto dei miliardari stilati dalla rivista Forbes. Il fondatore di Microsoft ha un patrimonio netto di 75 miliardi di dollari e nonostante abbia perso 4,2 miliardi in testa alla classifica per il terzo anno consecutivo. Al secondo posto c'è lo spagnolo Amancio Ortega, fondatore della catena Zara, con 67 miliardi. Al terzo l'oracolo di Omaha Warren Buffett con 60,8 miliardi. A proposito di numeri invece di tutt'altro tipo, vediamo che punto è la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Alessandria. È 0-0. Invece quella notizia extra di questa sera: è stato identificato il gene dei capelli grigi e delle sopracciglia unite. Se i capelli iniziano a ingrigirsi, la colpa è di questo gene che si chiama IRF4, bisogna prendersela con lui, identificato per la prima volta insieme a un gruppetto di una decina di altri geni che agiscono come una cabina di regia per la peluria del viso e della testa, regolandone forma, colore e spessore. Il risultato è descritto sulla rivista Nature Communication, si deve ai ricercatori della University College di Londra. Questa scoperta conferma quindi che la causa della chioma ingrigita non è ambientale, bensì genetica, una conclusione cui i ricercatori sono arrivati dopo aver analizzato il DNA di oltre 6.000 individui latinoamericani, ma con origini europee, africane e native americane. Un risultato che apre la strada a numerose applicazioni che vanno dalla medicina forense, con la costruzione di un profilo, del profilo di un individuo sulla base della composizione genetica anche dei capelli e dei peli, e quella cosmetica. Però ancora non dicono se qui si trova una soluzione ai capelli grigi, bianchi e tantomeno alle calvizie. E prima di aggiornare chi sta viaggiando e di entrare nel cuore degli argomenti, poi vi dirò, torneremo appunto sulle adozioni, sulla stepchild adoption e anche sulla polemica sul tono in affitto, ci sarà la giudice Melita Cavallo. Intanto volevo dare uno sguardo ai vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effettonotte sia al 349-238-6666 sulle dichiarazioni a Repubblica TV di Di Maio, del Movimento 5 Stelle, che ha detto ci vuole un referendum sulle adozioni. Secondo molti il Movimento 5 Stelle ha cambiato varie posizioni, e poi dice al Senato sulle unioni civili Renzi ha preferito Verdini a noi del Movimento. Enrico scrive: qualunque cosa Renzi dica, qualunque cosa accada, il compito di Di Maio e soci è fare il bastian contrario. Cara Roberta, dice Enrico sulla pagina Facebook di Effettonotte, puoi già tranquillamente, prima ancora di intervistarlo, sapere quello che dichiarerai. I 5 Stelle ormai sono prevedibili, per non dire pateticamente irrilevanti. Cristiano: pronti a votare la Cirinnà integrale, ora deragliano su un referendum e leggono la stepchild in lavorazione come una homo ruffianata, perché dice Renzi lo fa per fare piacere alle associazioni gay. Gli altri calcolano, loro no, sono gli immacolati, scrive Christian. Poi Antonio: lo sa Di Maio che in Italia non possono proporre referendum propositivi? Continuate sia sulla pagina Facebook di Effettonotte sia al 349-238-6666. Ci sentiamo a momenti. Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Vi presento. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Avete visto, subito di nuovo insieme, con di nuovo, prima di sentire gli ospiti, i vostri messaggi, con Antonio che scrive, no, questa era una risposta a un ascoltatore sopra, ogni tanto vi incrociate tutte queste risposte sulla pagina Facebook. Roberto: a pensarci bene, con tutti i problemi che ci sono nel nostro paese, forse a molti papponi della politica italiana ci conviene arenarci sulle adozioni degli omosessuali. Maurizio: ciao Roberta, ma le donne di sinistra che urlavano l'utero è mio e lo gestisco io dove stanno? Questo a proposito dell'utero in affitto. Tra poco ci addentriamo in questi argomenti che possono essere in parte legati ma non completamente, bisogna tenere distinte le cose. 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Vi ricordo però quali sono le notizie più importanti della giornata. PIL e lavoro, dati Istat, l'Italia torna a crescere dopo 3 anni, Renzi esulta, dice i gufi stanno a zero e dice il 2016 sarà anche meglio. Utero in affitto, scontro Grillo contro Vendola e poi dal Tribunale di Roma sia l'adozione incrociata di 2 figlie di una coppia di donne. Monito dell'Europa alla Macedonia, sapete che ha fermato il flusso dei migranti, ma la situazione resta esplosiva al confine con la Grecia. Intanto c'è un piano dell'Unione Europea di 700 milioni di aiuti per la crisi dei profughi. Stati Uniti 2016, al voto per il Super Tuesday, il Super Martedì, oggi è l'ora della verità, diciamo che è l'evento più importante delle primarie negli Stati Uniti. E poi, per quanto riguarda le indagini sulla morte di Regeni, sull'omicidio di Regeni in Egitto, sarebbe stato torturato più volte in 7 giorni, viene dalla procura di Giza in Egitto, ma il governo smentisce e Gentiloni ribadisce vogliamo la verità. Poi arrestato in Brasile il numero 2 di Facebook, non ha rivelato dati WhatsApp in un'indagine sui Narcos. Ed eccoci allora sulla legge relativa alle unioni civili. Sapete che dopo un percorso travagliatissimo, tormentatissimo, ha avuto un primo sì al Senato e adesso dovrebbe essere, credo, sembra più facile il percorso invece alla Camera, ma continua a essere caldissimo un tema collegato, che è quello delle adozioni, della stepchild adoption cosiddetta, cioè la possibilità all'interno di una coppia dello stesso sesso di adottare il figlio biologico del partner. Sapete che questo articolo, che era il più controverso, il più contestato, era stato stralciato dal disegno di legge Cirinà, infatti è passato senza questo tema, che però poi il PD promette di rimettere in una proposta di legge. Se ne sta parlando sia per questo, ancora molto, delle adozioni all'interno delle coppie dello stesso sesso, proprio per questa proposta che il PD intende elaborare, ma anche per il molto scalpore che ha fatto la notizia che l'ex presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, è diventato padre in California attraverso la maternità surrogata. Infine se ne parla, è caldo anche perché Luigi Di Maio, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle, nonché vicepresidente della Camera, in un'intervista a Repubblica TV ha accusato, cioè ha detto che ci vuole sulle adozioni un referendum popolare. Sapete che il Movimento 5 Stelle è stato accusato di aver cambiato più volte posizione su unioni civili e temi connessi, di aver rotto insomma con il PD, e Di Maio ha detto che sull'adozione è necessario un referendum. Tra l'altro oggi c'è questa sentenza del Tribunale per i minorenni di Roma che ha riconosciuto l'adozione incrociata a una coppia di donne, cioè il primo caso in Italia, secondo quanto rendono noto Famiglie Arcobaleno e Rete Lenford. Ci sono 2 bambine di 4 e 8 anni che sono nate dalle 2 compagne grazie alla fecondazione assistita praticata in Danimarca. Il giudice ha riconosciuto il diritto delle 2 mamme di adottare la figlia dell'altra, però queste bambine avranno il doppio cognome e non saranno considerate sorelle. Ne parliamo con Melita Cavallo, presidente sino a 2 anni fa del Tribunale per i minori di Roma. Dottoressa Cavallo, buonasera. Buonasera. Che con le sue ultime sentenze, mi pare almeno 6, ha aperto, diciamo, la strada alla stepchild adoption, mi pare in particolare però nelle coppie di donne. E tra l'altro lei è testimone, con la sua lunga carriera, della metamorfosi della famiglia in Italia. Ha scritto un libro che è stato appena pubblicato, Si fa presto a dire famiglia. Che ne pensa di tutta questa discussione sulle adozioni? Lei che appunto in diverse sentenze, visto che la politica delega ai tribunali, le ha legittimate. La politica non delega ai tribunali, i tribunali applicano la legge, non fanno leggi ma applicano la legge che hanno studiato, la interpretano e naturalmente danno sentenze ove necessario riconoscono il diritto, diciamo l'interesse superiore di un bambino a divenire figlio della compagna della madre, perché da quella donna è stato curato e amato come un figlio. Però delle norme, quindi, se lei ha potuto applicarle, già esistono delle norme che... Certamente. Se il tribunale ha potuto applicarle, sono norme esistenti che abbiamo applicato per anni e anni, per oltre 30 anni. E non era mai capitato che fossero 2 donne, che quindi una delle 2 chiedesse di adottare il figlio dell'altra. In genere era capitato un rapporto etero, però una volta che poi la domanda viene fatta da due donne, non si può discriminare, perché un articolo fondamentale della nostra Costituzione, l'articolo 3, dice che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge, non possiamo fare differenze né per sesso, né per etnia, né per religione e così via. Quindi abbiamo applicato la legge. Quindi abbiamo una legge... applicato il diritto internazionale, abbiamo applicato, abbiamo fatto riferimento alle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la sentenza è ben motivata. Quindi una legge... vero che è stata confermata in appello per il momento. Stavo dicendo, quindi, dottoressa Cavallo, una legge già esiste, c'è bisogno allora di legiferare sulla stepchild adoption, sulle adozioni all'interno delle coppie? C'è bisogno, nel senso che essendoci stata questa apertura alle unioni civili, questo è un momento importante, molto importante per la nostra legislazione, per la nostra Italia, che ci porta al livello degli altri paesi europei. Io che ho iniziato a lavorare negli anni 70, diciamo, io come posso dire, insomma, mi sembra che sia siamo nel momento in cui nel 1975 avemmo la riforma del diritto di famiglia, quindi abbiamo una riforma molto importante, e quindi lo stralcio non ha significato a mio parere molto, perché si potrebbe trovare una soluzione anche molto migliore rispetto a quella attuale, che ha dato la possibilità di riconoscere l'adozione del partner al partner della figlia della compagna, però potrebbe essere regolamentata molto meglio questo passaggio. E per quanto riguarda, dottoressa Cavallo, invece tra due uomini, sa che ha fatto molto discutere la notizia appunto di Nicky Vendola, che ha avuto questo bambino in California da una donna indonesiana. Le situazioni sotto il profilo costituzionale sono identiche, però c'è la differenza che invece di una eterologa c'è una gestazione per altri. Non c'è un affitto d'utero, perché parlare dell'affitto di utero in modo, assolutamente repulsivo per tutti, perché significa sfruttare il corpo di una donna, e quindi tutti lo rinneghiamo. E invece c'è in molti paesi la possibilità di utilizzare l'utero di una donna che non viene pagato, è tutto regolamentato dalla legge del luogo, e la quale porta in grembo il bambino concepito da altri. Ci sono infinite, moltissime coppie eterosessuali italiane che vanno all'estero e utilizzano la gestazione per altri. Sì, anche quindi le coppie eterosessuali. Quindi nel caso per esempio di Vendola, se lei fosse ancora giudice, lo è stata fino a due mesi fa, del presidente del Tribunale dei Minori di Roma, cosa farebbe in questo caso? Dovrei naturalmente valutare bene come è nato questo bambino, se è nato appunto non da sfruttamento sessuale della donna, ma da un regolamentare contratto che quel paese prevedeva, senza che ci sia stata dazio di danaro. Bisogna valutare la situazione, valutare l'interesse superiore del bambino. E, è una situazione un po' diversa da quella delle due donne. Senta, ha sentito di quest'ultima sentenza proprio del tribunale di cui lei è stata presidente sino a poco fa, di queste bambine di 4-8 anni all'interno di una coppia di donne? Sì, ma è una sentenza che ho scritto proprio io. Non c'è nulla di diverso dalle altre. Però il fatto che non sono sorelle tra di loro? Ma no, prima di tutto, in linea di massima, quando l'una e l'altra delle due compagne generano un bambino attraverso l'eterologa, in linea di massima il donatore è lo stesso, quindi mi sembra che anche in questo caso il donatore sia stato lo stesso, quindi sono figlie dello stesso padre, cominciamo. Secondo, il fatto che non siano sorelle dipende da un'interpretazione della legge che alcuni danno in un senso e altri in un'altra. Lei sa che ormai tutti i figli sono uguali, cioè figli naturali, figli legittimi, figli adottivi, non esiste più distinzione tra figlio e figlio, i figli sono tutti messi alla pari dalla legge, da una delle ultime leggi. Allora c'è un filone interpretativo che dice che anche in questi casi nell'adozione in casi particolari si crea il rapporto con gli ascendenti, con i collaterali, e c'è una linea di pensiero, di interpretazione che dice che non si crea. Quindi già questo, dire che non sono sorelle sotto il profilo tecnico-giuridico, sotto il profilo biologico, non esiste, perché ormai tutti i figli sono uguali. Quindi a mio parere queste bambine che si sentono sorelle sono davvero sorelle. Dottoressa Anita Cavallo, io intanto la ringrazio e le auguro buona continuazione. Ok, buonasera. Grazie. Adesso dobbiamo parlare subito con Jacopo Iacoboni. Ciao Jacopo, giornalista della Stampa, commentatore Ciao, politico. Buonasera. Ciao Jacopo, hai sentito che cosa ha detto oggi Di Maio? Adesso ne parliamo più da un punto di vista politico, qui era più giuridico, tecnico, con la dottoressa Melita Cavallo. Beh no, però molto interessante sì. Quello che dice lei, no? Sì. Sgombra anche parecchi equivoci per tavolo. Sembrerebbe, però adesso bisogna vedere come va avanti il dibattito politico e anche l'iter politico sia della legge sulle unioni civili, sia l'altro, lo stralcio, la stepchild adoption, perché sentiamo Di Maio ha detto che l'utero in affitto è una cosa abominevole, che c'è è inammissibile il supermercato dei bambini. Anche con la dottoressa Melita Cavallo si diceva che insomma se viene sfruttato il corpo di una donna pagata eccetera, soprattutto nei paesi poveri, non è una cosa accettabile. Però Di Maio ha detto anche che a Repubblica TV che quello delle adozioni, le adozioni sono devono essere soggette a un referendum, e poi ha anche criticato il fatto che Renzi abbia preferito al Senato Verdini al posto del Movimento 5 Stelle. Ce l'abbiamo, lo sentiamo? Lì c'era un Senato che era pronto a votare, c'erano i numeri per votare il DDL sulle unioni civili. Lei dice e non si è voluto. Il Senato avrebbe deciso se la stepchild dovesse rimanere nella legge oppure no. E invece Renzi ha preferito fare l'accordo con Verdini ed Alfano e fare una legge al ribasso, tra l'altro con evidenti vizi di incostituzionalità, perché se tu alle unioni civili togli l'obbligo di fedeltà stai creando delle unioni che non hanno neanche la parvenza di un patto legato a dei sentimenti, quello legato sembra, ad una coppia. Allora, questo ha detto Di Maio. Allora qualcuno si chiede, ma il Movimento 5 Stelle ha cambiato, se è vero che ha cambiato, diverse posizioni, da chi voleva il matrimonio vero e proprio tra i gay, alla libertà di coscienza, a poi dire ci vuole il referendum sulle adozioni? Cioè è una questione di appunto coscienza che sta riflettendo, cambiando all'interno del Movimento 5 Stelle? È una questione di calcoli, di sondaggi sulla propria base elettorale, o per fare uno sgambetto al PD? Come lo leggi tu, Jacopo? Beh, guarda, tu hai detto 3-4 cose che spesso, cioè secondo me le motivazioni si mescolano e c'è un pochino delle varie cose che hai detto, io penso, cioè non è una spiegazione unica, semplice, ma è, diciamo, può essere un intreccio di queste motivazioni. Sicuramente c'era un dato di partenza che insomma, sulla stampa raccontammo una settimana prima del Pietro Front sulla libertà di coscienza, cioè che c'è una parte di senatori, secondo me, diciamo, io ho sempre sostenuto che fosse più ampia dei 2 o 3 che loro riconoscevano, contrario alla stepchild adoption. All'interno del Movimento 5 Stelle. All'interno del Movimento 5 Stelle. A me risultava che fossero, io ne avevo trovati diciamo 6 o 7, e penso che in realtà ce ne fosse anche qualcuno di più che in varia forma non l'avrebbe votata, cioè avrebbe o votato no o sarebbe uscito dall'aula. In più tutta una serie di altri ragionamenti, di considerazioni, di informazioni, diciamo, mi avevano fatto ricostruire un quadro di una serie di inclinazioni anche tattico-politiche verso il mondo cattolico, presenti anche nel mondo del Movimento 5 Stelle. Quando dico mondo cattolico dico anche diciamo quello più istituzionale, quindi i vescovi, alcuni pezzi diciamo di gerarchie vaticane, quindi questa componente secondo me c'è stata. Poi c'è stata sicuramente la componente di non voler risolvere un problema al PD, perché onestamente dobbiamo dire che il PD diciamo su questa questione era a sua volta abbastanza diviso, e al di là dei 20 cattodem, diciamo senatori cattolici del PD, anche lì poteva aprirsi diciamo uno scenario piuttosto difficile dentro il PD sui voti segreti. Quindi il Movimento 5 Stelle ha fatto anche, c'è stata anche la motivazione di non favorire, cioè di non essere, come dire, la minoranza che risolve un problema alla maggioranza. E poi, secondo me, non piccolo, c'è stato poi l'intervento, diciamo, dall'alto, da Milano, penso, di Casaleggio, cioè la volontà di non connotare sempre questo, cioè una delle preoccupazioni principali che c'è lì è di non connotarlo come un movimento che si sbilancia a sinistra, anzi tutt'altro, semmai di indirizzarlo nella direzione opposta. E questo lo si è visto sull'immigrazione, per esempio, su alcune grandi scelte proprio riguardanti i diritti, diritti sociali o diritti, diciamo, bioetici. Tra l'altro c'è Gay Sent, perché Di Maio oggi ha detto anche questa mossa del PD che vuole proporre un disegno di legge sulla sexual adoption è per arruffianarsi, per ingraziarsi le associazioni gay. C'è il portavoce di Gay Center che oggi ha detto: ora Di Maio vuole affossare anche la legge sulle adozioni, dichiarazioni non molto lontane da quelle della destra, mentre Arcigay dice: rimandare la questione dell'accesso all'adozione per le coppie dello stesso sesso a un referendum vuol dire lavarsene le mani come fece Ponzio Pilato. Insomma, dalle associazioni gay che sostenevano, che spingevano il Movimento 5 Stelle a votare, adesso, diciamo, c'è un po' di maretta, c'è sicuramente un po' di scontento. Chiede un ascoltatore, Jacopo, poi ci salutiamo, dice: qualcosa mi sfugge, se secondo Renzi i voti non erano sicuri, cosa garantisce che col super canguro lo sarebbero stati, cioè con quel maxi emendamento che avrebbe cancellato una serie di emendamenti e avrebbe reso più snello nell'obiettivo del super canguro l'iter delle unioni civili, quello che poi si sono scontrati col Movimento 5 Stelle? Si sarebbe l'idea del super canguro era di bypassare tutta una serie di emendamenti. Dice: ma cosa garantisce a Renzi che avrebbe avuto aiutato in questo caso dall'accordo col Movimento 5 Stelle? Ed è proprio quello che il Movimento 5 Stelle si è rifiutato di farlo, e a quel punto, proprio perché non era garantito, Renzi ha cambiato strada. Ha fatto un'inversione a U e ha cambiato strada. Jacoboni, ti ringrazio. Grazie, buona continuazione. Jacopo della Stampa. Ci sono un sacco di messaggi, però mi sa che dobbiamo correre subito alla prossima pausa. Voi continuate con le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 con Gianni, che dice: vorrei capire una cosa. Nessuno spiega che leggi ci sono negli altri stati. Potete spiegarlo o no? L'abbiamo detto tante volte, Gianni. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi e le notizie ve le ricordo brevemente. Sempre il tema caldo delle adozioni per le coppie gay. Primo sì di un tribunale per l'adozione di due figlie di una coppia di donne. E il Movimento 5 Stelle con Di Maio chiede un referendum sulla stepchild adoption. Immigrazione, piano dell'Unione Europea da 700 milioni per aiutare la Grecia. Ne parleremo tra pochissimo. I dati Istat, PIL e lavoro in crescita. In Italia cala la pressione fiscale. L'omicidio di Regeni, la procura egiziana conferma, torturato per più volte in 7 giorni. Ma il governo egiziano smentisce. Gentiloni sottolinea: ci aspettiamo dall'Egitto quella piena collaborazione che ci è stata promessa. Le primarie negli Stati Uniti, oggi è il super martedì, è l'ora della verità. Trump verso il trionfo, ma Hillary e Sanders possono batterlo. E per quanto riguarda la Coppa Italia semifinale Milan-Alessandria, per il momento 3-0. Europa 24 notte. Spazio europeo, dove ieri abbiamo parlato dei confini caldi dell'Europa, in particolare di quello greco-macedone, con scontri tra la polizia macedone e i migranti che hanno sfondato le barriere che poi sono state ricomposte. Sull'altro fronte, a Calais, nel nord della Francia, oggi sono riprese le operazioni di sgombero. E nel frattempo l'Unione Europea, la Commissione Europea, domani proporrà un piano da 700 milioni per aiutare, Sergio Nava, ciao Sergio, la Grecia in particolare, che è quella più in difficoltà, ma immagino comunque un piano in generale. generale per chi per affrontare questa crisi, no, dei rifugiati? Sì, è tecnicamente complicato, si parla di un nuovo dispositivo per permettere la mobilitazione rapida, i finanziamenti comunitari, aiuti e interventi di protezione civile da dispiegare all'interno dell'Unione Europea per affrontare crisi umanitarie legate all'afflusso di profughi. In allegato ci sarà questa comunicazione che stabilisce, almeno propone, 700 milioni di euro in 3 anni. Chiaramente tutti pensiamo alla Grecia, ma non c'è solo la Grecia. In questo momento ovviamente la Grecia è il paese con i maggiori problemi, perché anche perché già lo è economicamente, no? In difficoltà, in più con piove sul bagnato decisamente, anche perché abbiamo al confine di Domenia, le ultime stime parlano di 10.000 persone accampate, la Macedonia ne fa entrare addirittura meno delle 580 che dovrebbe farne entrare ogni giorno, e solo chi considera effettivamente profugo. La Grecia oggi ha chiesto, tra l'altro, solo per lei 480 milioni di euro per dare assistenza a 100.000 profughi. Parliamo di un paese di 11 milioni di persone, tra l'altro, quindi è anche piccolo numericamente, anche in termini di popolazione. E lì è arrivato il 90% del flusso migrante nei primi 2 mesi dell'anno. No? Abbiamo i dati dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati che confermano quanto aveva già detto sostanzialmente Frontex. Addirittura aumentano forse anche un po' le stime di Frontex della scorsa settimana. 130.000 ingressi in Europa, arrivi in Europa in 2 mesi, parliamo di gennaio e febbraio 2016, di cui 122.000 in Grecia. Pensate che questi 131.000 arrivi sono quanto ne sono arrivati in 5 mesi l'anno scorso. Quindi bisogna stare... È vero che Frontex la settimana scorsa diceva a gennaio c'è stato un calo di arrivi rispetto a dicembre, ma già Frontex diceva rispetto a gennaio 2015 parliamo di numeri estremamente moltiplicati, 30 e più volte... superiori a quanti ne erano arrivati lo scorso anno. Quindi la situazione è estremamente complicata. Abbiamo un'Europa che sul fronte diplomatico sta cercando di fare qualcosa. C'è il presidente europeo Tusk che sta percorrendo la rotta balcanica fino ad arrivare in Turchia per preparare la strada al vertice Europa-Turchia di lunedì prossimo. La commissione che sta preparando per la prossima settimana una revisione delle regole di Dublino, però oggi abbiamo il cancelliere austriaco Faymann che senza troppi complimenti dice non vogliamo diventare il parcheggio di rifugiati per la Germania, se la Germania vuole così tanto se li prenda lei, se li vada nei centri di smistamento e se li prenda. Questo per dire un po' qual è il clima oggi, che abbiamo un paese in grande emergenza che è la Grecia, abbiamo una rotta balcanica dove si continua a dare chiari segnali che si vogliono alzare muri, abbiamo Bruxelles che prova a metterci delle pezze stanziando aiuti di emergenza. È veramente difficile capire se e come ne usciremo, sinceramente. Ne usciremo e vediamo domani quali sono le reazioni a questa proposta della Commissione Europea. Grazie Sergio. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto nel momento giusto, con la giusta conduttrice anche Roberta Giordano sempre con voi. Prima di ricordarvi i titoli e di collegarci con gli Stati Uniti per capire come sta iniziando questo Super Martedì, che è l'evento più importante nelle primarie americane in vista delle presidenziali che si terranno l'8 novembre negli Stati Uniti, volevo guardare i vostri messaggi sempre sulle dichiarazioni oggi di Di Maio su Repubblica TV a proposito delle adozioni delle coppie gay. Ha detto che ci vuole un referendum popolare, non basta il Parlamento, e ha anche detto che questa proposta di legge che sta preparando il PD sulle adozioni all'interno delle coppie dello stesso sesso è un modo per ingraziarsi le associazioni gay, cosa a cui non hanno reagito molto bene appunto Gay Center, Arcigay, Famiglia Arcobaleno, eccetera. Continuo a vedere i vostri messaggi, quindi vi dicevo, tra la pagina Facebook e il 349-238-6666 c'è Marco che scrive: diciamo che avete una certa fantasia sia nel dire idiozie tra il giornalista e la conduttrice, ma comunque siete sempre patetici e ridicoli, non vi conviene capire e far capire non le posizioni ma la politica del Movimento 5 Stelle. Marco, io ho avuto diverse volte e continuerò a avere esponenti del Movimento 5 Stelle che spiegano le loro ragioni, io ho fatto semplicemente sentire i file, quindi le voci di oggi di Di Maio a Repubblica TV, puoi riascoltarle anche su Repubblica TV se non le hai sentite bene. Poi Anselmo dice: penso che Di Maio dica una grande verità, un referendum su questo tema delicato farebbe emergere un reale bisogno oggettivo. poi vediamo altri messaggi, perché molti sono anche risposte sulla pagina di Fettonotte. Francesco: il tema è delicato e visto che non ha deciso il Parlamento ma una sola persona, ora è giusto dar voce ai cittadini con referendum. Beh, non proprio solo una sola persona, Francesco, mi pare che sia qualcuno in più, che sia condivisibile o no quello che è stato deciso. Andrea: sul fatto che Renzi ha preferito Verdini e Alfano è abbastanza chiaro, il famoso emendamento canguro non è stato messo in votazione, quindi non si può dire che i 5 Stelle non hanno voluto votarlo. Sui referendum invece è sempre d'accordo quando decidono i cittadini. Poi altre 49 238 6666, mi sto spostando tra la pagina Facebook di Fettonotte, WhatsApp e poi gli SMS. Dice Gianni: vorrei capire una cosa, no, questo delle leggi che già ci sono negli altri stati. Doris da Trieste scrive: no al referendum perché la libertà ha come limite la libertà dell'altro, non l'opinione della maggioranza. Qualcosa mi sfugge, dice un altro ascoltatore, quello anche lui sul super canguro. E poi Alessandro da Roma: questa trasmissione non si può sentire, abbiamo ampiamente capito come la pezza sulla stepchild adoption, ora però torni a fare la giornalista, ognuno ha le sue posizioni. Questo Alessandro. Invece su WhatsApp dice un ascoltatore: Verdini, nessuno gli ha chiesto di votare per Renzi, 5 Stelle sono loro che non hanno voluto votare prima della fiducia. Poi vediamo se riesco a aprire questo messaggio. Prima della fiducia, poi ora l'utero in affitto è scandaloso e l'aborto no, probabilmente l'ha votato anche lui il referendum per l'abolizione. Luigi Corno, cercate di scrivere in modo più completo perché altrimenti non riesco a stare dietro ai vostri ragionamenti. I giudici non applicano la legge, dice un altro ascoltatore, chi afferma questo afferma il falso, i giudici interpretano le leggi e questo porta a sentenze diverse. Costantino scrive: se vendono il compagno saranno considerati padri biologici, anche la stepchild adoption riguarderà loro, purtroppo, dice Costantino. Poi un altro WhatsApp: la gravidanza surrogata è una tecnica medica nata per aiutare le donne che hanno subito la menomazione dell'utero a seguito, vediamo il seguito anche del messaggio, a seguito di un tumore. Oggi se ne parla tanto per le coppie gay, ma non dimentichiamolo, come sempre la scienza va incontro alle persone che hanno bisogno di aiuto. La donna che ha messo al mondo Tobia, cioè il figlio di Vendola, ha tutto il mio rispetto, così dice Daniele. Adesso però vi ricordo le notizie brevemente, dobbiamo collegarci con gli Stati Uniti tra poco. Allora, PIL e lavoro, l'Italia torna a crescere secondo i dati Istat, dopo 3 anni Renzi esulta, i gufi stanno a zero, il 2016 sarà anche meglio. Utero in affitto, scontro a sinistra, Grillo contro Vendola, dal Tribunale intanto di Roma sì all'adozione incrociata di 2 figlie di una coppia di donne. Monito dell'Unione Europea alla Macedonia, ne abbiamo appena parlato, la situazione resta esplosiva al confine tra Grecia e Macedonia, dall'Unione Europea questa proposta di 700 milioni di aiuti per la crisi dei profughi. Stati Uniti al voto per il Super Tuesday, ne parleremo a momenti, e intanto c'è anche la notizia naturalmente che riguarda Regeni con quello che dice la procura egiziana, è stato torturato più volte in 7 giorni, ma poi il governo egiziano smentisce. Volevo vedere gli aggiornamenti della partita di Coppa Italia Milan-Alessandria, semifinale 3-0 ancora per il Milan. E siamo collegati finalmente con Marco Valsania dagli Stati Uniti, corrispondente del Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao, come state? E lì come stanno? Oggi è il grande martedì, il Super Tuesday come si dice, no? Oggi è Super Tuesday, esattamente, al voto vanno una dozzina di stati, di grandi stati americani, al voto nelle primarie, chiaramente per scegliere il candidato dei due partiti alla presidenza, e questo Super Tuesday darà dei responsi significativi soprattutto per due candidati, cioè Donald Trump tra i repubblicani, il candidato a sorpresa che sta sbaragliando il novero degli aspiranti repubblicani alla presidenza, e Hillary Rodham Clinton, che dovrà confermare il suo ruolo di favorita contro lo sfidante Bernie Sanders. I pronostici cosa dicono, Marco? Perché molti si stupiscono al di là, oltreoceano, no? Rispetto al di qua dell'oceano, vogliamo dire, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Trump è un personaggio piuttosto controverso, no? Un miliardario che si è innamorato del potere della politica, legittimo naturalmente per tutti, che spara parecchie cose, dal razzismo a frasi mussoliniane, forse non ha neanche gran conoscenza di quello che dice, e quando gli chiedono anche qual è esattamente il suo programma, lui per esempio appunto dice che vuol fare grande l'America, dicono che mancano un po' dei dettagli tecnici. Sì, manca qualche dettaglio, anche forse più di qualche dettaglio, ma in realtà come dicevi tu, un personaggio estremamente controverso, anzi sempre più controverso man mano che la campagna va avanti. Non è un mistero a questo punto che buona parte dell'establishment repubblicano sia, se non proprio inorridito, molto preoccupato, imbarazzato della marcia su Washington, se così possiamo chiamarla, tanto visto che ama citare Mussolini. Ecco. Però il successo per il momento c'è da parte degli elettori, come li chiamiamo, no? Assolutamente, e anche in questo Super Tuesday, se i sondaggi si rivelano veritieri, Trump, nonostante le polemiche, appare avviato a vittorie in buona parte di questa dozzina di stati, dalla Virginia al Tennessee. Ecco, l'unico stato dove importante, grosso, dove potrebbe non vincere, dove è in corso un duello testa a testa, è il Texas. Il Texas, che è lo stato di un altro peraltro candidato controverso, cioè il senatore, ma un po' meno di Trump, il senatore Ted Cruz, così paladino della destra religiosa. Ecco, lui è senatore del Texas. Ecco, nel Texas Cruz al momento, nei sondaggi delle ultime ore, appare leggermente in vantaggio su Trump, e il Texas è un po' il grande premio in palio per le primarie repubblicane, perché ha tipo 155 delegati in palio, i delegati che poi sono necessari a vincere la nomination. Ecco, nel Super Tuesday, per fare così rapidamente un conto, sono in gioco per i repubblicani la metà sostanzialmente dei delegati necessari alla convention. Quindi è una tappa importantissima. Senti, abbiamo 5 secondi. Hillary Clinton mi sembra posizionata bene rispetto a Sanders tra i democratici. Ecco, in questo momento anche lei è posizionata bene e cerca però conferme. Molti degli stati al voto sono stati del sud degli Stati Uniti, con una forte presenza di minoranze etniche, in particolare afroamericane, Marco, ispaniche, e qui la Clinton è avvantaggiata. Ci aggiorniamo comunque domani. Grazie Marco Valsani da New York. Noi ci sentiamo alle 22.